io bei giorni passati, mia piccola amica, ti devo lasciare. Gli studi son già terminati, abbiamo finito così di sognare. Non ti potrò scordare, Piemontesina bella, sarai la sola stella che brillerà per me. Ricordi quelle sere, passate al Valentino, col Bruno studentino che ti stringeva sul cuore. Non mi potrò scordare, Piemontesina bella, sarai la sola stella che brillerà per me. Ricordi quelle sere, passate al Valentino, col Bruno studentino che ti stringeva sul cuore.